Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi puntata d'eccezione nella quale vi forniremo importanti informazioni sulle ultime novità relative alla legge contro esodo, normativa utile a rientrare in Italia approfittando di significative agevolazioni fiscali. Basterà a rendere la penisola attrattiva per i suoi migliori talenti espatriati? Forse no, ma intanto è un primo passo. Soprattutto coglieremo l'occasione per indagare due importanti spaccati della nostra emigrazione, i neolaureati che emigrano e i professionisti che ci provano a tornare. Ad attenderli quale paese? Un paese in grado di apprezzare i curricula di ritorno dei suoi giovani talenti espatriati? Io ho all'attivo 35 candidature, tutte con lettera di presentazione, e le risposte che ho ricevuto si possono veramente contare sulle dita di una mano, anzi anche mezza mano. Irene Galbani, 25 anni, è una research analyst al lavoro per Fidessa, società londinese operante nella City. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Oggi il notiziario quasi interamente dedicato a chi torna in Italia e alle difficoltà che spesso si trova ad affrontare. Qualche agevolazione in più arriverà dalla recente firma della circolare attuativa della legge contro esodo. L'Agenzia delle Entrate ha diffuso venerdì 4 maggio l'attesissimo documento che fa finalmente chiarezza sull'applicazione delle norme. Queste, in sintesi, le nuove istruzioni per l'uso. La legge si applica a chi rientra in Italia ed è nato dopo il 1 gennaio 1969. Le donne che rientrano abbatteranno il reddito imponibile dell'80%, gli uomini del 70%. Hanno diritto agli incentivi i cittadini assunti o titolari di attività d'impresa o lavoro autonomo che rientrano nel paese trasferendovi il proprio domicilio nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. Il termine assunzione comprende le attività di lavoro dipendente e quelle che producono redditi assimilati, quali i redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, così come le somme ricevute sotto forma di borse di studio. Occorre aver maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009. Possono accedere al beneficio i lavoratori che hanno trasferito residenza e domicilio in Italia anche prima dell'assunzione o dell'avvio dell'attività, purché il trasferimento sia funzionale a queste ultime. Per accedere all'agevolazione conta poter dimostrare di aver effettivamente svolto attività di lavoro o studio all'estero. Non è necessario essere stati iscritti all'anagrafe residenti estero. Infine, entro il 31 maggio i sostituti d'imposta dovranno rilasciare un nuovo CUD per l'anno 2011 ai lavoratori interessati. È possibile richiedere il rimborso a un ufficio territoriale dell'agenzia allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti. Questo dunque il succo della circolare, il cui testo è disponibile sul sito agenziaentrate.gov.it. Contattata da Giovani Talenti, l'Agenzia delle Entrate non ha ritenuto di concedere alcuna intervista per spiegare questa circolare. E a volte tornano. Oggi vi proponiamo due storie di controesodati, giovani professionisti che hanno scelto di scommettere sul bel paese, chi usufruendo di controesodo e chi no. A margine della recente conferenza Welcome Talent a Milano abbiamo incontrato due di loro. Il primo è Antonello Russo, laureato in economia aziendale, 6 anni all'estero, è rientrato come account manager usufruendo di controesodo. Non è stato, diciamo, facile, perché all'inizio c'è stata tantissima confusione, anche i consolati. Io ero in Inghilterra e l'ufficio notarile, che era poi quello posto, anche loro avevano delle idee molto molto confuse, e diciamo io e un altro ragazzo siamo stati utilizzati anche come tra virgolette cavie, perché eravamo i primi a far domanda, e insieme a loro insomma siamo riusciti a capire un po' le cose che servivano. Un consiglio pratico per chi volesse usufruire della legge? Documentarsi bene, leggersi veramente bene la legge, e poi andare su internet e visitare tutti questi siti che, come Controesodo, che spiegano bene come far domanda. E ascoltiamo ora Tommaso Giordano, area manager per un'azienda pubblica a Milano, è rientrato dal Marocco, dove lavorava per l'ONU con la qualifica di direttore, ma è pronto a ripartire. Quando si rientra si riparte un po' dall'inizio. Non so se l'incentivo monetario è quello più efficace per il rientro, penso più a una trasparenza nella selezione del personale, nella progressione delle carriere, più che a un incentivo vero economico. Quando si è fuori molto spesso gli stipendi sono più elevati che in Italia, quindi non è tanto a livello economico il vero problema quanto la sensazione di poter progredire nel proprio potenziale. Quanto per la tua famiglia, voi avete appena avuto una bambina, è stato difficile rientrare? Le difficoltà ci sono, soprattutto appunto per una famiglia giovane che effettivamente non ha un sistema di incentivi come magari in altri paesi europei. Cosa vi tiene in Italia? Molto poco, e siamo pronti a ripartire. Storie di giovani talenti italiani alla conquista degli Stati Uniti. I 20enni Andrea Vaccari e Alberto Tretti hanno venduto la loro startup web Glancy, pensate, al colosso Facebook. Prossimamente saranno a Giovani Talenti. I giovani istruiti e competenti in Italia non trovano lavoro. Il tasso di occupazione delle persone tra i 25 e i 29 anni con alte competenze è il più basso d'Europa, 55,6% contro una media dell'80%. Lo afferma l'IREF. Il mercato del lavoro non riconosce le qualità dei giovani, affermano le ACLI. In Italia il problema non è tanto la fuga dei cervelli quanto la scarsa attrattività del nostro paese verso gli stranieri. Così Jacopo Morelli, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. La sfida per Morelli è far partire una trasformazione. I giovani dovrebbero essere più arrabbiati. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo un traduttore capo a Eumetsat, sede di Darmstadt, Germania. Scadenza per CV 25 maggio. Info su eumetsat.it. Un ingegnere chimico a Yara, a Porsgrunn, in Norvegia. Scadenza per CV 21 maggio. Info su yara.com. E infine, per i dottori in giurisprudenza, l'Università di Copenaghen e l'Università di Islanda hanno bandito borse di studio triennali di PhD. Scadenza per CV 18 maggio. Info su yura.q.dk/phd. La storia di questa settimana di giovani talenti ci riporta oltre manica, rotta verso la Gran Bretagna, patria della meritocrazia. Nome: Irene. Cognome: Galbani. Età: 25. Città di origine: Verbania. Studi: economia aziendale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? A Londra. Perché? Per lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono un analista di ricerca. Dove? Presso Fidessa. Tornerai? Sì, tornerò. Ready to go, ma anche ready to come back nel tuo caso, Irene. Davvero da incorniciare la provocazione che lancia a giovani talenti @radio24.it. Spesso, dopo tanti anni all'estero, quando si prova a tornare ci si sente dire che forse non si è il candidato ideale, perché potrebbero esserci dei problemi a riadattarsi all'ambiente lavorativo italiano. Constatazione ricorrente, effettivamente. Straordinaria però la tua considerazione, ma non è l'espatriato a doversi adattare. Dateli invece il benvenuto col suo bagaglio di esperienze e la sua mente aperta per cercare di creare qualcosa di grande e vedere le cose da una prospettiva diversa. Irene, voi giovani expats avete in tasca la ricetta per rivoluzionare questo paese sprigionando le energie migliori? E se sì, a chi fate paura? Noi non abbiamo in tasca la ricetta e non sono nemmeno sicura ne serva una. Dovremmo fare paura a tanti. Purtroppo non abbiamo di fatto alcun potere, quindi come potremmo fare paura? Raccontiamo la tua storia. Per gli studi scegli una laurea in economia aziendale, perché? Sinceramente, quasi per caso. Non volevo continuare con quello che avevo fatto prima, che era un indirizzo linguistico. Avevo scoperto che mi piacevano di più le materie scientifiche e quindi mi sono buttata su economia aziendale. E per la specializzazione di laurea punti sulla finanza. È vero che la scintilla della passione per questo settore scocca col corso sui mercati finanziari? Sì, per la prima volta ho pensato, io su questa cosa vorrei saperne di più. Precisiamo però che la Gran Bretagna compare già fin dal tuo percorso di studi. Nell'estate 2007 affronti uno stage come sales analyst a Birmingham. Quanto quell'esperienza ti ha aperto gli occhi? Ho capito subito che l'Italia è bellissima, ma all'estero si lavora meglio, gli stagisti non fanno fotocopie e sono anche pagati. Interessante. E nel luglio del 2010 ti laurei con 110 e lode. Domanda di rito: soddisfatta o no della formazione ricevuta in Italia e quanto ha influito sulla tua ipotesi di proseguire con un dottorato? Complessivamente sì, mi dico soddisfatta. A quel punto inizia la caccia al posto di lavoro e qui ci scontriamo con due fronti. Il primo, quello italiano: stupisce la tua rassegnazione di partenza. Trovavo stage di 6 mesi con retribuzione minima, se non nulla. Non mi sentivo in diritto di sperare in qualcosa di meglio, ci scrivi. Ma dove sta scritto, Irene, che a un giovane debbano essere preclusi i sogni e le ambizioni a prescindere? Che futuro ha un paese così? Un paese così non ha nessun futuro. Questo purtroppo non sta scritto da nessuna parte, ma è la situazione. Cioè, era inutile cercare qualcosa che in Italia non esisteva, perché l'unica possibilità era lo stage. Un legittimo sospetto, Irene. Tu pensi che in Italia tutti i giovani abbiano però queste magre prospettive? Dico tutti? Oppure in un paese dove la raccomandazione familiare o di altro tipo sembra essere tuttora l'agenzia di collocamento più funzionante, ci sono dei giovani più uguali degli altri? Questa agenzia di collocamento poi di fatto è quella più funzionante un po' dappertutto, non solo in Italia. Sicuramente ci sono dei giovani che magari hanno prospettive un po' meno magre da un punto di vista economico, però poi quello che penso io è che siamo tutti sulla stessa barca, quindi ci tirano tutti a fondo, vanno a fondo anche loro. Forse l'unica differenza è che io e te ce ne accorgiamo e loro no. La fortuna aiuta gli audaci però, e lo insegna la tua storia, non in Italia ma oltre manica. Allora, vogliamo raccontare come sei entrata in contatto con Fidessa, la tua attuale azienda? Io sono entrata in contatto contatto con Fidessa per reperire dei dati per conto del mio relatore, il professor Lazzari, e sono entrata in contatto con questa società perché di fatto era una delle prime a fornire, diciamo, questo tipo di informazione. Quindi, insomma, si è deciso di farsi coraggio e chiedere: vi serve qualcuno? Vi serve una mano? E la cosa incredibile è che, senza praticamente conoscerti, Fidessa ti assume, investendo su una brillante neolaureata italiana. Vogliamo raccontare il processo di selezione? Un processo di selezione assolutamente anomalo, perché non ci siamo nemmeno mai incontrati di persona, come hai appena detto, è stata tutta una cosa di conference call, ma sono stati molto chiari fin dall'inizio, cioè io avevo 3 mesi di tempo, un contratto, diciamo così, di prova per una posizione che al momento, a quel tempo, non esisteva. Ovviamente mi è stato dato vitto alloggio in maniera che io non dovessi preoccuparmi anche di dovermi trovare un appartamento appena arrivata a Londra. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Il 18 novembre 2010, data che resterà segnata in maniera indelebile nella tua biografia, inizi il lavoro a Londra. Lo fai prendendoti un rischio, rifiutando uno stage in Italia presso una banca di investimento. Perché l'hai rifiutato, diciamo? L'ho rifiutato perché non si poteva non rifiutare, anche se avevo insistito tanto per avere il colloquio con quella banca di investimento. Anche perché le condizioni che ti offrivano a Londra erano un po' diverse, le vogliamo raccontare? Innanzitutto c'è un salario, ecco. E non è poco. Parte da un salario tra le 25 e le 30 mila sterline e la tassazione poi sul lavoro dipendente è decisamente inferiore. Di solito c'è un periodo di prova di 6 mesi e poi si passa al tempo indeterminato, e c'è poi anche la possibilità di avere un buon programma formativo. Irene, le sorprese non finiscono qui, perché non solo questa azienda investe su di te, ma addirittura ti disegna intorno a un ruolo che prima non esisteva. Quale? Io sono un analista di ricerca e mi occupo principalmente di mercati azionari. La tua prova viene superata così brillantemente che meno di un anno dopo il tuo team supporta con successo la tua candidatura nella lista delle 40 stelle nascenti del settore trading and technology stilata da Financial News. Cosa significa entrare in questa classifica? Significa visibilità, perché significa che la mattina dopo magari trovi nella tua casella di posta o nella tua inbox su LinkedIn il messaggio di un amministratore delegato di una società che si offre di venire presso il tuo ufficio per conoscerti. Vogliamo raccontare anche quanto è più rilassato l'ambiente di lavoro oltremanica, dove non c'è una gerarchia così forte ma i capi sono primus inter pares. Noi lavoriamo tutti gomito a gomito, dalla segretaria all'amministratore delegato. La mia opinione viene presa molto in considerazione, addirittura nel momento in cui io sono arrivata, cioè assolutamente inesperta, la mia inesperienza non è stata vista come un handicap, ma come un elemento da sfruttare, perché io sono stata messa davanti ad uno dei loro prodotti e mi è stato detto: tu sei un utente inesperto, dimmi cosa vedono i tuoi occhi di utente inesperto. Impensabile, direi, in Italia, culturalmente impensabile. Quanti curricula hai inviato in Italia? Quante risposte ricevute? Io ho all'attivo 35 candidature, tutte con lettera di presentazione, e le risposte che ho ricevuto si possono veramente contare sulle dita di una mano, anzi anche mezza mano. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Non la vedo, o meglio, quelle poche notizie che si leggono sono cose assolutamente ridicole, cui noi dedichiamo prime pagine dei giornali. Una proposta concreta: la meritocrazia sicuramente non è la panacea di tutti i mali, ma aiuta. Quindi partiamo dai vertici, proprio quelli più alti, e iniziamo a tagliare i rami secchi. Se poi vogliamo incentivare il rientro dei giovani che si trovano all'estero, facciamoli rientrare, ma facciamoli rientrare dandogli delle posizioni dalle quali hanno una certa libertà di manovra. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Irene Galbani, 25 anni, Research Analyst per Fidessa PLC a Londra. Irene approda oltre manica grazie a un'autocandidatura con una laurea in economia alle spalle, dopo aver scartato la possibilità di un dottorato e dopo aver glissato su una proposta di stage in Italia, ovviamente mal pagato. A Londra la responsabilità affidatale dall'azienda è tale che Irene si vede cucire addosso un ruolo su misura. Poco più che ventenne, si trova a doversi inventare letteralmente il proprio lavoro. I suoi sforzi saranno coronati dall'inclusione tra le 40 stelle nascenti del settore trading and technology. Interessano profili come il suo, non in Italia, un paese denuncia lei della visione a breve periodo. E ci raggiunge ora in linea Luigi Rondanini, responsabile del servizio placement dell'Università Luc Ateneo, dove Irene ha studiato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Luigi, il 5% dei vostri laureati va all'estero. È un fenomeno che vedete in crescita? E cosa c'è dietro? Una sana voglia di globalizzarsi o un paese in cui non credono più? Sicuramente è un trend in crescita. I motivi che spingono i nostri laureati a trovare lavoro all'estero sono principalmente legati al tipo di percorso di studi che hanno intrapreso. Infatti circa un terzo dei nostri laureati svolge un'esperienza di studio all'estero e sono molti gli studenti che decidono di frequentare il biennio di laurea specialistica in lingua inglese. Per questi ragazzi diventa naturale confrontarsi con un mercato del lavoro che non si limita più all'Italia, ma diventa più ampio e globale. E questo, Luigi, è il lato positivo, ma c'è anche forse un lato negativo. Diciamo che dipende molto anche dal tipo di facoltà che un ragazzo frequenta, nel senso che ci sono facoltà che hanno più mercato in Italia, come per esempio le facoltà ingegneristiche o quelle di economia, e ci sono altre facoltà invece, magari quelle umanistiche o scientifiche, che diciamo così rendono un po' obbligatorio quasi, per poter riuscire in una carriera, doversi trasferire all'estero. Quali sono i paesi di maggiore sbocco dei nostri neolaureati? Sicuramente l'Europa, sicuramente la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, ma adesso iniziano anche ad esserci molti laureati che iniziano ad andare in Estremo Oriente, quindi in Cina, in Malesia. I giovani sono sempre più avanti rispetto alle generazioni che li hanno preceduti. Quali sono le differenze di impiego e di salario che notate tra chi parte e chi resta? Sicuramente per chi resta deve accontentarsi di un salario che è sicuramente inferiore rispetto ai ragazzi che invece decidono di andare all'estero a lavorare. In Italia si sconta un po' la cultura del posto fisso. In Europa il tasso di occupazione dei laureati è superiore all'Italia, come pure sono superiori, lo dicevi anche tu, gli stipendi, per non parlare dei meccanismi di selezione e progressione di carriera che sono più trasparenti. E, Luigi, il nostro, lo dico anche nell'interesse delle nostre università, è un sistema paese allergico a chi investe sulla propria formazione qualificata e non è una strategia suicida nel lungo termine? Sicuramente il sistema universitario deve cambiare, nel senso che deve iniziare a colmare quello che è un po' il gap che c'è tra mondo del lavoro e università. Per attuare questo cambiamento però è necessario un maggiore confronto fra gli atenei, gli imprenditori, le aziende, in modo da avere una migliore comprensione di quelle che sono le esigenze che le aziende hanno e di conseguenza strutturare i corsi laurea in funzione di queste esigenze. Irene, hai una domanda per Luigi Rondanini? Volevo chiedergli se ha notato o nota una differenza quando si trova ad interagire con società italiane rispetto invece a società straniere nell'approccio che hanno. Sì, assolutamente sì, nel senso che l'approccio delle società straniere è molto più aperto, molto più disponibile ad accogliere i giovani, molto più disponibile a metterli alla prova, mentre quelle italiane sono chiaramente un po' più, diciamo, chiuse, un po' più diffidenti, se mi passate il termine. Luigi, prima di chiudere, un consiglio proprio personale ai giovani: cosa fare? Studiare qui, lavorare qui oppure investire sull'estero? Io direi che sicuramente un'esperienza di studio o di lavoro all'estero permette una crescita personale e professionale molto forte, che in un mondo ormai come quello in cui viviamo, globalizzato, diventa un fattore distintivo. Grazie a Luigi Rondanini, responsabile servizio placement dell'Università Luc. Per chiudere, domanda di rito a Irene Galbani: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? C'è la possibilità di espatriare, che lo faccia e soprattutto che non pensi nemmeno per un attimo di non essere all'altezza. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi ci trasferiamo nel prestigioso campus americano di Yale per raccontarvi un'organizzazione che raggruppa i nostri studenti e accademici oltreoceano. Diego Bertelli, coordinatore della Italian Society of Yale Students and Affiliates. Italiana Yale nasce 3 anni fa. L'idea è quella di creare un punto di riferimento per chi arriva a Yale ed è italiano, quindi fornire una prima orientation, aiutarli appena arrivano. Si tratta di cose che non hanno nulla a che fare con l'accademico, ma che hanno di più a che fare col lato pratico, logistico, diciamo. Gli iscritti al gruppo sono molti. Io credo che in totale siamo oltre i 120 iscritti. Che tipo di emigrazione è quella italiana a Yale? Parliamo di giovani? Parliamo di persone che hanno una fascia d'età che va dai 20 ai 40. Quindi si va dallo studente del college che arriva qui e fa effettivamente l'esperienza americana dell'università alle persone che fanno o dottorati oppure sono impegnati in ricerche postdoc o anche in veri e propri posti di lavoro. Perché scelgono gli Stati Uniti? Primo è la mancanza di riferimenti in Italia, quella sorta di baronato accademico che in qualche modo ancora condiziona molto il nostro paese. Altri semplicemente perché hanno in realtà tutta una serie di scambi e collaborazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, quindi la situazione si sta modificando leggermente. In che senso? Nel senso che ci sono aperture verso collaborazioni, quindi non si tratta più soltanto della fuga dei cervelli, ma si tratta anche di un movimento che va e che viene verso gli Stati Uniti e appunto riviene verso l'Italia. Quali sono gli ostacoli al ritorno? Prima di tutto del riconoscimento dei titoli, e molto spesso i nostri concorsi, essendo diversi da quelli americani, essendo concorsi banditi pubblicamente, ma in realtà essendo già spesso decisi internamente, diventano un po' dei falsi. Per chiudere, le attività di italiani a Yale. Le attività sono quelle appunto di orientamento appena si arriva, di aiuto nei primi periodi, l'organizzazione di incontri di lingua, organizzazione di piccoli incontri culturali e ogni tanto qualche bella pizzata. Per maggiori informazioni potete cliccare su isisa.wordpress.com. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Resta attiva la nuova iniziativa sui nostri canali online, compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere il nostro un paese dove i migliori circolano e non scappano. Aspettiamo le vostre idee. Infine, siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.